جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. C'era in vero per la gente di Sabà un segno nella loro terra. Due giardini, uno a destra e uno a sinistra. Mangiate quel che il vostro Signore vi ha concesso e siategli riconoscenti. Avete una buona terra e un Signore che perdona. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. Si allontanarono da noi. E allora inviammo contro di loro lo straripamento delle dighe e trasformammo i loro due giardini in due giardini di frutti amari, tamarischi e qualche loto. Zalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illa al kafur. Così li ricompensammo per la loro miscredenza. Castighiamo in tal modo altri che il miscredente? وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. Situammo tra loro e le città che avevamo benedetto altre città visibili l'una dall'altra e calcolammo la distanza tra loro. Viaggiate di notte e di giorno in sicurezza. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. Dissero, Signore, aumenta la distanza tra le nostre soste. Così danneggiarono loro stessi. Ne facemmo argomento di leggende e li disperdemmo in ogni luogo. In verità in ciò vi sono segni per ogni uomo perseverante e riconoscente. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. Iblis si convinse di aver visto il giusto a loro proposito. Lo seguirono dunque, eccetto un gruppo di credenti. وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ. Non aveva su di loro alcun potere, eccetto per il fatto che volevamo distinguere chi credeva nell'altra vita e chi ne dubitava. Il tuo Signore è colui che preserva ogni cosa. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. دي Invocate coloro che pretendete essere divinità all'infuori di Allah. Non sono padroni neppure del peso di un atomo, nei cieli e sulla terra. In quelli e in questa non hanno parte alcuna con Allah, e in loro egli non ha nessun sostegno. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. Nessuna intercessione varrà presso di lui, eccetto per colui al quale egli lo avrà permesso. Quando poi il terrore avrà lasciato i loro cuori, verranno interrogati. Cosa diceva il vostro Signore? Risponderanno: la verità. Egli è l'Altissimo, il Grande. قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Di, chi provvede a voi dai cieli e dalla terra? Di Allah. In verità, o noi siamo sulla retta via, oppure in evidente errore. Qul la tus'aluna amma ajramna wa la nus'alu amma ta'malun. Di, non sarete interpellati a proposito di quel che noi avremo commesso. E noi non lo saremo a proposito di quel che avrete fatto voi. Qul yajma'u baynana rabbuna thumma yaftahu baynana bil haqqi wa huwa al fattahu l'alim. Di, il nostro Signore ci riunirà, quindi giudicherà tra noi, secondo verità. Egli è il giudice che tutto conosce. Qul aruniya alladhina alhaqtum bihi shuraka kalla bal huwa Allahu al-azizul hakim. Di, mostratemi quelli che gli avete attribuito come soci. Niente affatto. Egli è Allah, l'Eccelso, il Saggio. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Non ti abbiamo mandato se non come nunzio ed ammonitore per tutta l'umanità, ma la maggior parte degli uomini non sanno. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. E dicono: quando si realizzerà questa promessa? Ditecelo se siete veridici. قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ. Di, vi aspetta un giorno che non sapreste né ritardare né anticipare di un'ora. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه

وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. I vostri beni e i vostri figli non vi potranno avvicinare a noi, eccetto per chi crede e compie il bene. Essi sono coloro che avranno ricompensa raddoppiata per quel che facevano, saranno al sicuro negli alti livelli del paradiso. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. Coloro che invece cercano di vanificare i nostri segni saranno obbligati a presentarsi al castigo. قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Di, in verità il mio Signore concede generosamente a chi vuole e lesina a chi vuole e vi restituirà tutto ciò che avrete dato. Egli è il migliore dei dispensatori. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. Un giorno tutti li riunirà e dirà agli angeli: è voi che costoro adoravano? قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. Diranno: gloria a te, sei tu il nostro patrono. No, essi adoravano i demoni. La maggior parte di loro credeva in essi. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. In quel giorno non potrete giovarvi o nuocervi a vicenda, e noi diremo a coloro che furono ingiusti: gustate il castigo del fuoco che tacciavate di menzogna. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. Quando vengono recitati loro i nostri chiari versetti, dicono: Costui non è altro che un uomo che ci vuole allontanare da quello che adoravano i vostri avi. E dicono: Questa non è altro che una menzogna inventata. Quando giunge loro la verità, i miscredenti dicono di essa: Questa non è che evidente magia. وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ. In passato non demmo loro libri da studiare, né prima di te inviammo loro un ammonitore. وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. Coloro che li precedettero già tacciarono di menzogna le rivelazioni, mentre essi non hanno raggiunto nemmeno un decimo di quello splendore che concedemmo a quegli altri. Trattarono da bugiardi i miei messaggeri. Quale riprovazione fu la mia? قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. Di, ad una sola cosa vi esorto, state ritti per Allah a coppie o singolarmente e riflettete. Non c'è alcun demone nel vostro compagno. Egli per voi non è altro che un ammonitore che precede un severo castigo. قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. Di, non vi chiedo nessuna ricompensa. Essa vi appartiene. La mia ricompensa spetta ad Allah. Egli è il testimone di tutte le cose. قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. Di, certamente il mio Signore rivela la verità. Egli ha perfetta conoscenza di ogni cosa nascosta. قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ. Di, è giunta la verità. Il falso non può dare inizio a nulla e nulla rinnovare. قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ. Di, se mi perdo, è solo contro me stesso che mi perdo. Se mi mantengo sulla retta via, è grazie a quello che il mio Signore mi ha rivelato. In verità, Egli è colui che ascolta, colui che è vicino. وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ. Se li vedessi quando saranno atterriti, senza nessuna via d'uscita e afferrati da presso. وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ. Allora diranno, crediamo in lui. Ma come raggiungeranno la fede da così lontano? وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ. Quando in precedenza erano miscredenti e da lontano rifiutavano l'invisibile. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. Si porrà un ostacolo tra loro e quel che desiderano, come già avvenne per i loro emuli, che rimasero in preda al dubbio e all'incertezza.